onore, se ci è. Buonasera. Sì, buonasera, aspetta un attimino che siete qua. Già c'è Gio Maria. Aspetta, io che in altre mi sono ricinchiare, ma chi c'è deve stare se dai. Cazzo. Ti immagini, ti caso mai che si... I nomi che però non si vede, però. Ma che noi ci rimaniamo i nomi. Ah, così è ciò. Ah, una signora si è trovata in giardino, che 11 cinghiali. Prima usciva a passeggiare, adesso no, non riesce più a passeggiare perché c'ha paura. E poi Ruzinda che non fa nulla, non fa nulla, non mette nessuna ordinanza. Insomma, le cose per mandarli via, farli tornare dove erano. E l'unica soluzione è arricchizzare. E basta. Ma che a Mari sono poi pure a mangiare, niente, che tu passano. E libari, ecco, libari, e li vogliono a mangiare. Invece no, e devono mettere a mangiare, devono tornare nel loro posto, cercarselo lì. Vuol dire che in cibi non venne che mangiare. Ecco cosa è. È facile, perché vanno dove c'è da mangiare loro, capito? Evidentemente proprio fuori non ce n'è. E poi ci sono riuscito bene, passano dappertutto. Infatti passano dappertutto, sì. E il fatto è che il sindaco dovrebbe mettere un provvedimento subito per farli scacciare dalla città, perché sono pericolosi. Ah, se dovessi aggredire un uomo, si possono anche aggredire loro, là, capito? Ecco, faccio me. E quelli mordono, Infatti, e ti bicicini buru, secondo come ti attaccano, il fatto è quello, che sono pericolosi. L'unica cosa è mandarli dove erano prima, in mezzo dentro alla foresta, o se c'è una foresta, un coso. Dentro lì devono andare loro. I cinghiali in città come si devono comportare? Come si devono comportare? Non gli devono mettere da mangiare, che se no è peggio. Se devono mandare via, gli devono mandare, piano piano. È un problema, In certi posti è un problema virus, perché ce ne sono troppi. Ce ne sono troppi. Da fanno di fuori subito, con un'ordinanza per farli fuori. E così almeno, se no prende le gabbie, la forestale prende le gabbie e li porta nel loro habitat direttamente. Però qua l'hanno fatto. Già lo so, sì, l'hanno fatto vedere, anche a Rai 3 l'hanno fatto vedere l'altro giorno. I cinghiali che scendevano nel paese. Che c'è questo paese che è circondato da tutti i cinghiali. Asso cromato, vi dicevo, domani, esci dalla parte all'altra, in macchina è pericoloso anche, perché ce ne sono improvviso e c'è un macello, ma esci su questo grigio. No, l'unica cosa è farli fuori. Farli fuori e dare a mangiare la popolazione con quei cinghiali. Danne un pezzo barommo a tutti quanti e ci fa una grossa festa. E mi pare che non si possono sparare. E basta mettere un'ordinanza della Venaturia e ci vuoi sparare. Basta, il mangiare che c'è sulle campagne non passa più. Non basta più, allora vanno dove c'è da mangiare. Esatto, fatevi così, vanno dove c'è da mangiare. Per carità. Sente la propagazione, come sta salendo. Ah, c'è, ma una vecchia, l'hanno aggredita, l'hanno fracassata. Sì, te lo sto dicendo, che sono molto pericolosi. E Rosinda, guarda in chi non fa nulla, non fa. Deve avere un'ordinanza, lui deve mettere di scacciarli e tutto con dalla forestale. La forestale ce li ha i mesi per poterli scacciare. Però non lo fai. A papà caccia che tu mi diceva vai no, mica. Seguri i pari, mica. Cazzo ognuno. Manni minori. Sì, devo dire che sono ben pericolosi, io. E se non si fa di qualche cosa andiamo mari. Ma che domani sono qui sotto, non abbassa le e si rimane in tagliente, da un da uno sono qui sotto. Magari se si scoprono però si denunciano e si condannano. Ma è il sindaco che dovrebbe mettere un'ordinanza direttamente per fare organizzare con i cugi, con la forestale e tutto quanto. E farne fuori un bel po'. Però non lo fanno. Infatti adesso stiamo arrivando a canale 1. Sì, no, il fatto è che ce ne sono truppe in giro e tutto quanto non si può tenerli così fuori da qua. A Genova, sai che tu veni giù a Genova? Ma come ce ne sono truppe? Allora basta eliminare, ragazzi. Eliminalo, che basta controllarli, dato la popolazione, se sono stati arrivando, almeno la gente mangia. Se no, nelle piazze, poi fai finta e poi a cucinarli. E magari quelli che sono in mezzo non piace la carne cinghiale, anche forse per questo. Se no, capisci, devi bagnare sempre a posto di carne di cinghiale. Sì, io non che butta gli arrobati nella sacra del cinghiale. Babà, cazzo di vino, cazzo di vino. Babà, hai sentito che li vai a mangiarmi, babà. Chi si soffura, Babà, si gira la strada, chi te la... E no, che li sono fatto con la pensi. Sì, ci sono incontinenti, non sono qua in Sardegna, sono in continente, sono. Io che li vado in vola subito. Fatti. No, che li vado in vola subito e vedrai. Anche a Cogiù, qua in Sardegna, non le hanno arrivato a un certo punto, danno l'ordinanza e fanno fuori un po'. Vabbè, che d'inverno si va a caccia per eliminarmi un po'. Ma le campagne, deve essere la città, fa pure, nei parchi, con le macchine, batte i denti, si batte gli strati, e c'è un caffè macchina, la macchina, ma poi resta a passare i cinghiali. Infatti è così, bisogna stare attenti a questi, che sono un bel pericolosi. Dai là. Non ti piacciono, no? Aspetta, quelli che dica signora cosa fa. C'è nessuno, canale 23. Hola, Bacchiglio. Hola. Bene, signor Bacchiglio. Chi è? Chi è là? Chi è là? Sì. Alessio. Sì, ben tutto. Cosa eri in giro? Non ho capito. Aspetta, chi sono di fuori a disorpassa? Esagerato. Il minimo. Così forte quello, esagerato. Più forte di te sta arrivando. Cazzo. Bisogna cambiare tutto allora. Guarda che ti devi dare se fanno qualche scarpetta, ma arrivi. Ci vuole l'aggeggio lineare per poter pompare di più. Sì, già ci sentiamo. Certo, non saranno così forti a passare a noi, no? Me lo auguro, almeno quello. Allora, mentre te la abbassi. È così, così la verità. A rubreco accendi. Affresco, affresco, va bene. Mentre mai. È meglio. Tu ragazzi poi tutti i zarrani. Prima non c'è nessuno, quindi ci vivono di tu. A un certo punto bisogna usare baracchi da letto, ma peraltro. Certo. Ehi, vabbè, già tutti impegnati. Allora, buon. Vabbè, che beccaglio ancora, No, io c'è 20 celoletto, cosa dico? Ci sta bene. Sì, perché sta abbassando, sta calando il sole. C'è 20 cielo fresco, almeno quello. Ah, sta bello, mamma mia. Almeno quello, ci rifreschiamo. Sì, vabbè. Manco Gisù. Ah, gli hai fatto una chiamata, adesso c'è Pacchisio. Ma lo giaccio, ma niente più in trendy. Quello è sempre il figlio, lo sai. Sì, vabbè. Andate Gucci. Allora. Oia. Te li immagini, Gia, te li immagini. Cosa mi devo immaginare? C'è caldo e c'è anche una bella pastosa di freschetto, meno male, era ora. Io ne intendo da Rovaccone, mentre mi arriesta. Sì, che sono vicino alla finestra io, grazie a Dio, mamma mia, a me lo volo. Certo che mi muovendo. Attenzione, signor Bacchisio, se ci si dacci un colpo. Signor Bacchisio, ci sei, era ora che c'entrassi, meno male. Sì, domani. No, che non va a fare, guarda, per carità, guarda. Oh, yeah. Mi sa che ricordi a Bacchisio usare i PM, le cose, PMR, però c'era tranquillo, forse è meglio. Sì, sì. Così siamo ancora meglio. Meglio di questa, addirittura. Ma già c'era la 27, buona. Sì, va bene, ma... PMR è meglio. Dove in campagna esci molto molto meglio la verità. Ho intanto accendo, anzi ho accendo adesso la verità, perché... E non c'è nessuno. Sì, Ale, ecco, io mi stanno chiamando. Ti saluto, ci sentiamo magari domani, se tutto andare. Ok, ciao Ale. Sì, ciao domani, ciao.